si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, buona domenica, ben ritrovati con Si può fare, staremo insieme fino alle 11. Vi ricordo subito i nostri contatti, se volete interagire con noi in tempo reale ci trovate su Twitter, l'account del programma @ Si può fare 24, siamo anche su Facebook, Si può fare _ Radio 24. Più avanti apriremo anche il numero verde per intervenire, per commentare, per giocare anche insieme a noi come ogni sabato e ogni domenica. Ritroveremo Carlo Gabbardini. Ricordiamo un po' tutti i fondamentali, visto che insomma è il secondo weekend che siamo tornati dopo la pausa estiva, e allora è giusto ricordare tutto. Cominceremo affrontando il tema della decrescita felice, perché insomma lo sapete, in settimana il presidente del Consiglio Matteo Renzi, annunciando il programma dei 1000 giorni, ha ripreso questa espressione dicendo noi siamo per la crescita. Beh, è ovvio cosa volete che dicesse il Presidente del Consiglio, andatelo a chiedere a quelli che perdono il lavoro, che sono in cassa integrazione. Però questa questione della decrescita felice, su cui anche noi abbiamo speso parole, abbiamo parlato, nuovi stili di vita, vogliamo capirci qualcosa di più, se è sinonimo di recessione a tutti i costi oppure no, se si tratta di provare a produrre in modo nuovo, diverso, magari in maniera più attaccata, diciamo così, ai nostri bisogni. Insomma è un tema complesso, però vedremo di capirci qualcosa. Sappiamo anche che ci sono i fan dell'una e dell'altra parte, quindi restate all'ascolto perché parleremo anche di questo. Adesso però andiamo ad iniziare come sempre con una buona notizia. And now the good news. Allora, la stagione balneare è finita già da un po', anche se in Sicilia va avanti in genere ancora qualche giorno in più rispetto al resto d'Italia. Questo signore qua, Gianni Di Pasquale, passato alle cronache locali perché insomma negli ultimi giorni di mare li ha passati a Noto, in provincia di Siracusa, a raccogliere mozziconi di sigarette sulla spiaggia. Evidentemente è un suo pallino, questo signore qua non tollera di vedere le spiagge infestate, sporcate dai mozziconi, si è messo lì e cosa ha fatto? Ha pagato un centesimo per ogni mozzicone a chi glieli portava, ha coinvolto un po' di persone, soprattutto bambini, e ha dato la mancetta a un po' di gente. Alla fine ha raccolto circa 6.000 mozziconi di sigarette, una piccola iniziativa, una goccia nell'oceano se volete, però insomma ci piace lo spirito di questo signore che si è rimboccato le maniche, si è messo lì così, in pensione tra l'altro, tempo da trascorrere ne aveva, e ha dato il suo contributo per la spiaggia pulita di Noto. Vai, iniziamo. Ma andiamo a vedere, dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali, così abbastanza rapidamente, per chi non avesse sentito prima di noi, un'oretta fa circa, la rassegna stampa fatta già da Giulia Crivelli. Allora, ci sono diverse interviste sui giornali di oggi, ministri, esponenti politici sulla questione lavoro, è tutta la settimana che se ne parla. D'altra parte adesso si raccolgono un po' i frutti e anche i cocci di questa situazione, perché per esempio Repubblica titola: Renzi spacca il Partito Democratico contro il Jobs Act, 110 parlamentari. Ora vabbè, Repubblica ha un'attenzione spasmodica per le vicende interne del Partito Democratico, che a tutti gli altri italiani frega poco, però in ballo c'è questa fronda di critica nei confronti della riforma del lavoro, questa sì che interessa a tutti. C'è l'intervista al ministro Poletti, vediamo che cosa dice il ministro del lavoro. Pronti a mediare sull'articolo 18 e lotta alla precarietà, altrimenti via al decreto, quindi resta la minaccia insomma di procedere anche con decreto. Ministro Poletti domanda: per tanto tempo il governo ha detto che il problema non era l'articolo 18, ora invece il problema è proprio l'articolo 18. Può dirci cosa intendete, come intendete modificarlo? È aperta una discussione e non sono in condizione di anticipare nulla. Ecco, già questo è un inizio un po' sconcertante, ancora non si può dire nulla. Ci sono opzioni diverse sulla formulazione da dare al contratto a tutele crescente. A fine mese è prevista una riunione della direzione del PD che discuterà anche di questo. Poi il governo trarrà le conclusioni nei decreti attuativi della delega. Ma non sarebbe più corretto che il governo dicesse chiaramente cosa vuole fare? Il governo cosa vuole fare l'ha detto, risponde Poletti. Vogliamo che l'esame della riforma del mercato del lavoro sia fatta tutta insieme, non a pezzetti. Proponiamo un cambiamento radicale che renda drasticamente più semplice tutta la materia. E fin qua fumo, diciamo, no? Vogliamo cambiare profondamente gli ammortizzatori sociali per estenderli a tutti quei lavoratori che attualmente non ne hanno diritto e passare alle politiche attive per il lavoro. Ecco, questa è già una questione, ammortizzatori sociali. Sì, adesso poi vedremo le cifre che fa per esempio il Messaggero, si parla di alcuni miliardi di euro per dare un sostegno al reddito, perché chiaramente se si indeboliscono le tutele del posto di lavoro bisogna sostenere di più il lavoratore con un sostegno al reddito, che però secondo qualcuno costa 15 miliardi di euro l'anno e chissà dove li prenderanno sti soldi. Comunque, prosegue Poletti reintegro, ci sarà l'indennizzo monetario o il reintegro per i neoassunti licenziati senza giusta causa? È il tema dell'articolo 18, è una discussione aperta, risponde Poletti. Insomma, in sostanza è ancora tutto da definire, quindi non stracciamoci le vesti. Un'ultima domanda, ancora sull'articolo 18. Supponiamo che venga superato. Pensa davvero che possa dare un impulso all'occupazione? Sicuramente toglierebbe un alibi che non raramente viene sollevato dal mondo delle imprese, ma questo non vuol dire che produca automaticamente effetti sull'occupazione. Quindi, diciamo, sintesi di tutto questo è che il ministro del lavoro Poletti dice ancora tutta da scrivere la riforma, interverremo anche sull'articolo 18, ma non pensiate che sia quello a produrre poi nuovi posti di lavoro. Quindi la riforma, dalle parole di Poletti, si annuncia come molto sfumata. Dicevamo il Messaggero, articolo 18, ecco gli indennizi, il piano del governo per chi viene licenziato, risarcimento crescente fino a 24 mensilità. Niente né reintegro per i neoassunti, parliamo dei primi tre anni che perdono il posto di lavoro, ai disoccupati un assegno fino a 1.300 euro per un massimo di due anni. Ripeto il concetto, si passa da difendere il posto di lavoro a sostenere il lavoratore che lo perde. Questa è un po' la filosofia di fondo. Ministro Madia, altra intervista. Ministro della Pubblica Amministrazione che dice aumentiamo le tutele per combattere la precarietà, nessuno perderà dei diritti. Anche se si stabilisse, ministro Madia, che il diritto al reintegro scatta dopo tre anni, in ogni caso stiamo parlando di qualcosa che i giovani oggi non conoscono proprio. La mia generazione il reintegro non sa cosa sia. Allora partiamo da questo. Si parla di dare diritti, dei diritti, delle tutele crescenti a chi oggi lavora come precario o il lavoro non riesce proprio a trovarlo. Che altro dal ministro Madia? Vediamo, qualcuno però vede anche la volontà di prendere di petto l'attuale sistema di garanzie, cioè meno diritti. Risponde la Madia, ci sono due cose che di sicuro non vogliamo fare. Non faremo come la Spagna, che insegue la competitività abbassando il livello dei diritti e del salario, e non difenderemo un modello, quello attuale, evidentemente superato dai fatti, visto che continua a generare disoccupazione e precarietà. Un'altra intervista è quella del Sole 24 Ore a Pierluigi Bersani, che possiamo dirlo rappresenta un po' il capofila delle critiche da sinistra all'interno della maggioranza a questa riforma annunciata del lavoro. Ci sono tre macigni che Bersani mette sulla strada di questa riforma, pur essendo possibilista. Il primo macigno è che dice: per fare questa riforma degli ammortizzatori sociali, la flex security alla danese, ci vogliono almeno 15 miliardi di euro. Come facciamo a introdurla domani mattina con la situazione della finanza pubblica che ci ritroviamo? Primo macigno. Secondo macigno, il contratto a tutele crescenti, che secondo quanto si è capito si aggiungerebbe agli altri contratti. Invece Bersani e altri vorrebbero che si sostituisse a tanti contratti precari, perché lui dice abbiamo bisogno di un percorso unificante. Il contratto a tutele crescenti dovrebbe sostituire gran parte dei contratti esistenti, riducendo a tre o quattro le altre tipologie, altrimenti produciamo solo nuova discriminazione. Secondo macigno. Terzo macigno di Bersani sulla strada di Renzi è questo: l'articolo 18. Mi rendo conto che per le aziende sia faraginoso, che crei problemi, so che c'è un problema enorme di lentezza della giustizia, però io dico, interveniamo, proviamo a trovare soluzioni per farlo funzionare meglio, ma ribadisco, alla fine la reintegra ci deve essere, deve rimanere, magari dopo più anni, ma deve rimanere, è una tutela che va garantita. Il terzo macigno quindi è questo: il reintegro ci deve essere magari al termine dei 3 anni, cioè sospenderlo per 3 anni, per i primi 3 anni per i neoassunti va bene, dice Bersani, ci possiamo stare, ma non proprio eliminarlo del tutto alla fine. Velocissimamente, il ministro Padoan, che ha un colloquio anche con il Corriere, e annuncia niente ritocchi sull'IVA, niente tassa di successione. Dobbiamo invece tagliare ancora il cuneo fiscale per le imprese. Il ministro Padoan è di ritorno dal G20 in Australia. Fa un piano che non so quanti miliardi costa, dice: allora, tra le spese bisogna far fronte a quelle per investimenti, la ricerca e la scuola, quindi spese per investimenti, ricerca e scuola, e qua sono svariati miliardi di euro. Dal lato delle entrate dobbiamo diminuire le tasse sul lavoro alle imprese, e quindi anche qua sono altri miliardi di euro sul cuneo fiscale per le imprese, l'IRAP o chissà cosa sarà. Dovrebbe essere confermato anche l'intervento sul bonus di 80 euro per i redditi medio-bassi, questo lui non lo dice ma lo ha detto Renzi, quindi altri miliardi di euro, insomma un programmino per una legge di stabilità senza nuove tasse che potrebbe essere di 20 miliardi, e dove li troveranno? Speriamo, vediamo, vedremo. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, eccoci qua insieme in compagnia del nostro caro amico Armando Massarenti. Buongiorno Armando, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a tutti. Curatore responsabile, direttore del Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, come sapete ogni domenica ne parliamo a quest'ora, sfogliando i giornali e cercando storie importanti, perché sapete il Domenicale accende dibattiti, fa anche politica, Armando. In Italia. Ma sì, nel senso molto più alto. Molto nobile e alto del termine, sì. Senti, ma guarda, se vuoi partiamo allora proprio da un argomento che politico in realtà non è, però che riguarda i modi in cui la politica dovrebbe atteggiarsi rispetto alla cultura. E intanto sono anche questa volta ad un festival, perché è la stagione festa dei festival, sono a Pordenone Legge, un festival, un luogo molto bello e che ha una grandissima partecipazione, come accade appunto in questi festival veramente organizzati molto bene. E allora dicevo proprio questo, l'economia legata alla cultura, no? Che si lega quindi a questa idea dei festival, a questo successo dei festival. Abbiamo tra i tanti pezzi di questa settimana e tante riflessioni un articolo molto bello di Pierluigi Sacco, un economista della cultura, che parla di un libro che è di Geoff Mulgan, L'ape e la locusta, il futuro del capitalismo tra creatori e predatori. Insomma, questa distinzione tra un capitalismo che sa creare appunto anche cultura attraverso la cultura, e che mette in moto delle reti appunto che sono soprattutto reti relazionali, contro invece un capitalismo appunto predatorio. Questo libro verrà presentato a Torino, edito da Codice Edizioni, al festival, ad un altro festival ancora, cioè il Festival Spiritualità, che ha un titolo molto bello, Il cuore intelligente, che rimanda ad un verso altrettanto, anzi ancora più bello, di Hölderlin, il grande poeta tedesco: se hai cuore e intelligenza, usale una alla volta, perché se le usi entrambe ti dannano. Se le usi insieme, insomma, certo. Se le usi insieme, entrambe ti dannano. Ecco, questo è un bel tema di Festival Spiritualità, ma è anche l'occasione, oltre a questo pezzo proprio di economia della cultura, per fare un ragionamento su Torino. A Torino il 24 settembre ci sarà, nell'ambito dell'iniziativa del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, la riunione informale dei 28 ministri europei della cultura. Quindi ci sarà un bel momento. Esatto, quindi anche in questo è anche un modo che noi abbiamo colto questa occasione per fare una riflessione su Torino, che è un modello vincente proprio di una città che da città industriale, prevalentemente industriale, diventa nel corso degli ultimi decenni una città a vocazione fortemente culturale e anche turistica, dove anche la cultura e il turismo vanno a braccetto. Senti, posso chiederti una cosa? Come mai oggi titolate l'apertura, cioè come mai, domanda retorica, insomma, ti chiedo di parlarne, Gesuiti maestri di storia e di vita, cioè il titolo oggi che avete scelto è dedicato ai Gesuiti. Ecco, qui andiamo proprio alla copertina e qui grazie per averlo ricordato, perché questa è una iniziativa molto forte, molto importante, direi anche molto coraggiosa, di fare un esercizio storico su che cosa? Proprio sulla, appunto, sui Gesuiti, sulla Compagnia di Gesù. Noi qui pubblichiamo un pezzo veramente magistrale di Giovanni Miccoli, che è un grande storico, uno dei più grandi storici italiani, e che fa un po' il punto di, delle varie vicende che poi verranno, che insomma, da Ignazio di Loyola, che è il grande fondatore della Compagnia nel 1540, fino a Papa Francesco, cioè la situazione attuale, cioè il ruolo dei Gesuiti oggi. E noi non solo abbiamo dedicato questa copertina, che già di per sé è una riflessione molto approfondita, pubblicheremo a partire dal 27 settembre, da sabato prossimo, 12 volumi con dei ritratti, sono tutti a cura di una storica importante, Michela Catto, che appunto in 12 ritratti sono completamente inediti, sono una produzione nostra, diciamo, di Sole 24 Ore Cultura e del Domenicale, e avremo questi ritratti molto belli, molto vivi, che danno l'idea di come la Compagnia di Gesù ha attraversato, con varie contraddizioni peraltro e varie tensioni, tutta la modernità. È stata anche abolita, come tutti sanno, no? Nel 1763, e quest'anno sono esattamente i 200 anni della sua rifondazione, cioè nel 1814 fu rifondata, e Miccoli fa, insomma, i personaggi, poi ne cito qualcuno, Ignazio di Loyola, l'abbiamo detto, certo, Joan de Mariana, ma anche Roberto Bellarmino, quello famoso per Galileo, e poi ci sono, Antonio Ruiz Montoya, che tutti si ricorderanno per il film magnifico Mission, no? Certo. Ecco, e tanti personaggi. E poi si chiude con Bergoglio, naturalmente. E si chiude assolutamente con Papa Bergoglio, con un libro che è un po' diverso dagli altri, nel senso che è un libro intervista, dove Antonio Spadaro appunto fa un ritratto a partire dalla curatela delle domande di Camilla Tagliabue, che è una nostra collaboratrice, un bel ritratto di Bergoglio. Per cui 12 volumi, ma veramente di un approfondimento che appunto attraverso la storia ci fa capire bene anche da dove viene. E soprattutto Papa inediti, quindi insomma un'occasione in più, offerta completamente inediti, dal Sole 24 Ore. Tutti scritti da storici di grandissimo livello, e che sono i veri esperti di ognuno di questi personaggi che noi proponiamo. Quindi in questo, devo dire, ci mettiamo molto la nostra identità, ecco, di giornale culturale, di supplemento culturale che fornisce diciamo il massimo dell'autorevolezza su un tema non facile, ma assolutamente appassionante, perché queste vite poi sono di una varietà incredibile, c'è di tutto, poi c'è la costruzione della modernità, insomma, c'è la costruzione per esempio dell'antropologia, sono i Gesuiti, per fare solo un esempio, sono all'origine dell'idea di come si studiano le diverse civiltà e del fatto di come si tiene conto delle specificità per poi poter instaurare un vero dialogo o una conquista, diciamo, anche di tipo religioso, ma comunque con questa grandissima apertura rispetto alle culture. Bene, Armando, adesso dobbiamo fermarci perché siamo quasi a ridosso del giornale radio. A te grazie, ci ritroviamo domenica prossima, naturalmente. Grazie. Buona domenica, Armando Massarenti, ci fermiamo qua, tra poco c'è il giornale radio, poi rientriamo, apriamo anche il numero verde 800 24 00 24 per i vostri interventi, anche per giocare insieme. A dopo! Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oh, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati. Buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. 9:16 minuti, si parte, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta anche oggi, per commentare quello che sentite. Mettiamo un po' le nostre buone notizie al vaglio anche degli ascoltatori. Poi si gioca. Si gioca, si risponde. È il mio secondo giorno di scuola, non so se lo dirò tutti i giorni, però sono emozionato anche oggi come secondo giorno di scuola, ed è anche perché sono in seconda ormai. Seconda elementare, esatto. Ieri eri in prima, oggi sei già in seconda? No, ieri era il primo giorno di scuola della seconda elementare. Esatto. Sono un giornalista in prova, anzi no, nemmeno un giornalista. Quanto dura la scuola dell'obbligo? Fino 13 anni. 13 anni. No, quella dell'obbligo dura meno in realtà. Poi la scuola, diciamo, fino alla maturità, dalla prima elementare alla maturità sono 13 anni. Quella dell'obbligo 8 anni, per cui diciamo comunque hai opzionato i prossimi 7 anni, diciamo, di weekend. Speriamo non solo di weekend. Esatto, speriamo non solo di weekend. Anche Natale, agosto, tanto per dirne una. Anche se, come ho detto ieri, sono felicissimo di svegliarmi presto la mattina, devo dire. Poi oggi c'è un sole bellissimo a Milano ed è bellissimo, e anche tiepidino, sono venuto in motoretta e sono felice. Senti, devo dire una cosa di cui non parleremo oggi, ma che siccome ne abbiamo parlato tanto nelle altre puntate, questa settimana è arrivato il via libera alla cannabis a scopo terapeutico. Ti ricordi? Ma, abbiamo certo. Hanno firmato, adesso c'è il protocollo. Me ne sono occupato tutta la notte. Anzi no, scusami, no, non volevo dirlo. Era scopo terapeutico? Certo, no. Che era scopo terapeutico, stavo malissimo stavolta. È una cosa seria solo. Questa qua è una cosa serissima. Insomma, l'esercito la produrrà, non so più in quale centro in Italia, per il Ministero della Salute, perché comprarla dall'Olanda costava troppo, per poi essere utilizzata negli ospedali in Toscana, in Puglia, insomma in quelle regioni che l'hanno ammessa. Finalmente c'è il protocollo, adesso si parte. Ma sono molto contento di questa cosa che sia passata, perché in realtà ne avevamo parlato, perché Veronesi l'aveva completamente sdoganata, anzi sta lottando affinché venga sul fronte quello dell'utilizzo, diciamo, della legalizzazione eccetera eccetera. Sì, però in generale anche per la questione terapeutica. Però mi sembra che ci sia stato anche invece un servizio di di Iacona, che invece riproponeva l'ipotesi del fatto che la cannabis avesse degli effetti collaterali negativi sulla psiche dei ragazzini. Però qua parliamo a scopo terapeutico, certo. E questa, diciamo, per malattie gravi, certo. Come, diciamo, cura palliativa, insomma, come antidolorifico, esatto, fondamentalmente terapia del dolore. Benissimo, partiamo. 800 24 00 24, partiamo anche con il personaggio della settimana. Giusto, che c'è il gioco, dovete indovinare. C'è una notizia di questa settimana, c'è un personaggio, c'è un indizio e c'è soprattutto un super premio, perché domenica scorsa non lo abbiamo assegnato, vediamo se lo assegniamo oggi. Tutto il corso BBC, no scusate, che c'entra BBC? Business English, mi sono fatto prendere la mano. Dopo corso è sempre inglese, certo. Business English 24, il Sole 24 Ore lo mette a pagamento in edicola il giovedì, il DVD, il venerdì, il libro. Noi ve lo regaliamo tutto oggi. Tutto prima. Giusto? Perché in realtà esce sta già uscendo settimanalmente. Chi vuole acquistarlo lo sta già facendo, va avanti ancora per qualche settimana, credo. Noi ve lo offriamo tutto in un colpo solo, però dovete dirci chi è il personaggio della settimana, e il primo indizio è che in famiglia non è il solo ad avere talento. Io non ci credo che tutti gli italiani sotterrerebbero l'amianto nei campi, infangherebbero il nome degli avversari al solo scopo di non averli lì davanti, e comprerebbero la partita agli arbitri, o in quanto arbitri si farebbero comprare, racconterebbero bugie sulla disgrazia dell'occasione che fa l'uomo criminale. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Partiamo con Adriano Celentano, che è diventato un po' uno, diciamo, degli ideologi anche di riferimento, il cantante di riferimento sicuramente anche di quell'area lì, insomma, no? L'area grillina, l'area della decrescita felice. Direi molto prima di Grillo. Sono anni che batte questa strada qua. Adesso in settimana è stato Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, a riaprire un po' questa questione, perché annunciando il programma dei 1000 giorni ha detto, a proposito della decrescita felice, forse sarà felice per qualcuno, ma non lo è mai. Andatelo a chiedere ai cassa integrati, a quelli delle aziende che chiudono. E ha riaperto un po' questa questione, questa ferita per certi aspetti, perché cioè, quelli della decrescita felice, quelli che ci credono, non so se devono forse sentirsi in colpa perché credono in questo, diciamo, stile di vita. Ma forse diverso. Dobbiamo capire esattamente cosa sia questa decrescita, perché forse Renzi parlava di un altro tipo di decrescita. Adesso lo capiamo, giusto? Adesso lo capiamo, eh. Andrea Bertaglio, buongiorno. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Allora, Andrea Bertaglio, giornalista, collabora con La Stampa, è stato tra l'altro il nostro inviato nel gioco Inviati Cercasi, il primo, avevamo parlato con lui di agricoltura, autore di un libro che si chiama Generazione Decrescente. Immagino, sono sicuro anzi, perché ho visto già anche le reazioni sui social network, eccetera, eccetera, che quando Renzi ha detto questa cosa, tu ed altri vi siete sentiti chiamati in causa. Intanto il tuo commento alle parole di Renzi qual è? Il mio commento alle parole di Renzi è che, senza adesso fare polemica da bar della domenica mattina, ma dovrebbe iniziare a parlare meno per slogan o frasi fatte o tweet e invece approfondire un po' quello di cui parla. Renzi ha voluto lanciare una frecciatina con questa uscita a grillo, però fatemi precisare, anche rispetto a quello che dicevate poco fa, che un grillino, diciamo così, non è un simpatizzante della decrescita felice necessariamente, e viceversa, quindi non sono la stessa cosa. Anche Grillo ha parlato di decrescita felice in passato in modo anche approssimativo, e insomma non è che siano sinonime le due cose. Cioè, la decrescita felice in realtà è una cosa molto più seria di quello di cui parlano i grillini. No, dipende. No, sto dicendo che non sono la stessa cosa, nel momento certo. Che quella è la decrescita felice. Mentre Renzi ha teso ad associarli per ovvi scopi politici. Poi cosa devo dire? Che ha confuso una volta di più, proprio perché non ha approfondito, la decrescita con la recessione. Cioè, noi stiamo vivendo recessione adesso, mentre la decrescita è una presa di coscienza. Infatti, la cosa che sembrava era esattamente che Renzi stesse parlando di non di decrescita, ma che abbia sbagliato parola, giusto? Sì, perché la recessione. Sta parlando di recessione. Allora, recessione è come uno che non mangia perché non ha cibo, decrescita è uno che mangia meno o non mangia perché si mette a dieta. Sono due cose diverse, perché in entrambi i casi si mangia meno o non si mangia. Ecco, però, quindi, Andrea, noi ieri, parlando anche con Carlo di questa intervista, abbiamo fatto un esempio, no? Cioè, io sono, che ne so, uno che lavora alle poste per un certo stipendio. A un certo punto mi prendo male e decido che posso rinunciare magari a comprarmi l'ultima versione dell'iPad o l'ultimo telefonino, o a spendere i soldi in abbigliamento cercando di stare alla moda. Abbasso un po' i miei consumi, mi metto a fare un altro lavoro, che ne so, il giardiniere, guadagno di meno, però mi metto a fare il pane in casa e io sto bene lo stesso, anzi sto meglio di prima, perché passo più tempo con la mia famiglia, faccio un lavoro che mi piace di più e magari mi resta anche in tasca qualche soldino in più. Ecco, questo è l'esempio di quello che io avevo capito di decrescita. Ma uno così si deve sentire in colpa perché non fa crescere il PIL? Secondo le persone come Renzi sì, secondo le persone invece che ragionano, insomma, un po' più in base al buon senso, adesso senza suonare arroganti, no, perché non, cioè, chi se ne frega se il PIL non cresce? Il PIL cresce anche se acquistiamo armi e psicofarmaci, o se, come vuole Renzi, nonostante sia un boy scout e si definisca cattolico, includiamo le droghe o le armi. Le droghe non quelle per uso terapeutico di cui parlavate prima, quelle anche che sono illegali, per fare crescere il PIL. Però attenzione, fammi aggiungere una cosa, anche a livello di rilancio dell'economia, il messaggio della decrescita felice può funzionare. Perché? Perché, come avete detto voi, si può decrescita e farsi il pane in casa, ma è anche ridurre ad esempio gli sprechi energetici della propria casa. Sì. Queste misure, ad esempio l'efficientamento energetico degli edifici o la raccolta porta a porta dei rifiuti, insomma tutte queste misure sono a livello economico un'opportunità molto interessante, mentre le persone come Renzi, ma tutte quelle che pensano ancora in modo, diciamo, vecchio, in modo ottocentesco a livello economico politico, parlano di grandi opere, di cose di questo tipo, che invece creano solo debito e quindi aggravano la situazione. Io voglio far notare solo una cosa. Sì. Grandi opere, TAV, guarda, ho ripescato un articolo anche del Sole 24 Ore del 2012, mentre per ogni milione di euro investito nel TAV vengono creati 0,7 posti di lavoro, quindi meno di uno, per ogni milione di euro investito nell'efficienza energetica se ne creano 13. Quindi quella, l'efficienza energetica fa consumare meno energia, quindi ridurre selettivamente il PIL, ma crea più lavoro, quindi non ha senso. C'è il discorso di Renzi sempre. Possiamo, Andrea, con una certa approssimazione a questo punto dire che la decrescita felice dal punto di vista anche proprio dei comportamenti economici delle persone, anche macroeconomiche, è come dire, una forma di crescita controllata dove soprattutto si cerca di produrre meno sprechi, cioè la parola sprechi, produrre, come facevi l'esempio tu, no, dell'efficientamento energetico, cioè investire nei settori dove si diminuiscono gli sprechi, perché produrre per produrre, che ne so, Marchionne parla del fatto che c'è una sovrapproduzione di automobili, no, nel mercato dell'auto, e si continuano a produrre auto che nessuno compra o utilizza, anche se gli ultimi dati parlavano di una ripresa del mercato, però insomma è sempre in sovrapproduzione, quindi produrre meno cose inutili. Esatto, esattamente questo, produrre cose più utili, iniziare a badare alla qualità e non alla quantità, sia a livello di merci prodotte sia a livello di occupazione, però per farlo bisogna iniziare ad avere un dialogo, non continuare a sbolognare chiunque vada al minimo fuori dal pensiero mainstream come un fricchettone, un pazzo. Purtroppo Renzi continua con questo atteggiamento e non si riesce a... ma ci sono delle proposte molto interessanti. E poi lui dice il discorso di queste frasi veramente stucchevoli dei cassi integrati, dell'odore delle fabbriche chiuse. Io posso permettermi di dire che i circoli della decrescita felice organizzano i corsi di autoproduzione, quelli di cui parlavi prima, del farsi il pane, ripararsi l'impianto elettrico, cose di questo tipo. Ci sono sempre più cassi integrati e disoccupati che vengono a farli, proprio perché non possono più permettersi di pagare centinaia di euro magari per riparare un rubinetto. E questa gente qua viene, si emancipa dal bisogno di avere di dover usare un sacco di soldi per ogni cosa e quindi si arrangia da sé. E ne vediamo tanti di cassi integrati disoccupati in faccia che appunto riescono meglio a fronteggiare la situazione con questi corsi, ad esempio, piuttosto che con questi 80 euro sprecati che guarda caso non sono andati a finire nei consumi e servono solo per la solita propaganda. Scusate se sono polemico, però insomma. No, figurati. Ma volevo chiederti una cosa, scusa, io sono lo stupido dei due, non sono il giornalista. Ma volevo chiedere una cosa, ma secondo te ha parlato, diciamo, scientemente di decrescita o sei semplicemente sbagliato, voleva dire recessione e ha sbagliato, diciamo, o c'è anche una volontà di dire di colpire, di prendere le distanze dalla decrescita movimento. Come dicevo prima, non la sa la differenza perché non si è mai preso la briga di ascoltare o di leggere cose di questo tipo e ha voluto fare una frecciata a un suo avversario politico perché ha tirato in ballo la decrescita felice. Quindi è meno grave, diciamo, per la decrescita è meno grave perché non sta veramente colpendo la decrescita. Poi forse ci dice delle cose più gravi sul Premier, però non la conosce, ma questo porta a una riflessione più ampia, ossia al fatto che c'è sempre un pressapochismo nelle affermazioni che bisognerebbe iniziare a ridurre. Senti, certo. Andrea, intanto lancio la palla anche agli ascoltatori, 800 24 00 24, su questo tema della decrescita felice vorrei insomma che ci raccontassero anche le loro storie, per esempio personali, o il loro punto di vista su questo, se in qualche modo questo filone, questa idea della decrescita felice o quantomeno insomma di un stile di vita più attenta a un'economia che faccia meno sprechi possa essere anche una riflessione da fare. Insomma, in fondo sono diversi anni che stiamo in crisi, quindi sperare che le cose tornino come erano prima mi sembra anche illusorio. Allora è giusto aprire gli occhi e cercare di capire quale sarà l'economia del futuro. Andrea, a proposito, hai fatto prima l'esempio dell'efficientamento energetico, ci puoi fare qualche altro esempio di un'economia che va in questa direzione secondo te? Guarda, sono tanti gli esempi di efficientamento energetico. Prima parlavi della Fiat. La Fiat ha inventato delle macchine usando il motore di un'auto che la Fiat ha inventato 40 anni fa, il primo microcogeneratore di energia, cioè sono macchine che producono riscaldamento ed elettricità per gli edifici. Cioè, adesso senza farla lunga, ma si parla di usare la tecnologia dell'auto per rendere più indipendente il paese a livello energetico e per creare occupazione appunto anche a livello locale nella manutenzione e nell'installazione di queste macchine, oppure a livello personale di stili di vita. Io ho fatto con un paio di amici, colleghi, un documentario che si chiama Presi per il PIL, e facciamo vedere come le persone appunto, non basando la propria vita solo sui consumi inutili, riesce ad avviare delle realtà a volte su piccola scala, a volte meno, in cui appunto si fa di necessità virtù in tre parole. Ecco, però una critica che a volte viene mossa, ma lo dicevi anche tu prima, è un po' quella di dire che in fondo questa decrescita felice se la possono permettere quelli che insomma hanno le spalle coperte, no? Dice mi faccio l'orto, però allora devi avere la casa col giardino in campagna. È un po' così secondo te, oppure è una scelta che diciamo è interclassista da questo punto di vista? Assolutamente, ovvio che c'è tanta gente che parla di decrescita, che parla di ambiente, poi ha le rendite, le spalle coperte, ma come dicevo c'è sempre più gente, io mi ritengo uno di questi, che pur essendo non con le spalle necessariamente coperte riesce a viverla. Perché? Perché vivere la decrescita non è necessariamente far l'orto, vivere in campagna, puoi anche ridurre gli sprechi nel tuo appartamento in città, anzi in città forse è ancora più modo di mettere in pratica queste cose. Si tratta, come dicevate voi all'inizio, di ridurre gli sprechi, di ridurre le spese superflue, lo puoi fare ovunque senza per forza avere d'orticello. C'è però bisogno di, ripeto, andare a vedere queste cose, siti come decrescitafelice.it o decrescita.com, vedere di cosa si tratta, mentre purtroppo nella maggior parte dei casi ci si ferma al nome che non piace e si critica non la decrescita ma l'idea che ci si fa della decrescita, anche grazie a persone come Renzi che continuano a parlarne. Cioè, in realtà è un cambio di sguardo, diciamo, è molto più un cambio di sguardo, nel senso di dire invece che devo continuamente produrre perché ho tantissime spese, riduco le spese e forse ho bisogno di produrre meno. Sì, è un cambio di sguardo, un cambio di approccio con la realtà, diciamolo per usare paroloni, un cambio di paradigma culturale, cioè è cambiare le proprie priorità. A me non interessa lavorare di più per consumare di più, giusto, mi interessa lavorare meglio, vivere meglio, soprattutto in un momento in cui si ha sempre meno modo di lavorare, cioè la gente si ritrova a casa, invece che disperarsi perché non hai più un'identità o buttarsi sulle macchinette, le slot machine, vai a questi corsi, conosci delle persone, inventati qualcosa, cioè paradossalmente non è la decrescita, non vuol dire assolutamente voler tornare indietro, voler tornare alle caverne eccetera, paradossalmente è una proposta di avere un approccio innovativo con la vita, inventarsi qualcosa di nuovo, magari riscoprendo usi o cose stando meglio, soprattutto perché ricordiamo che il PIL non considera la qualità della vita. Assolutamente, cresce anche se, dicevo, acquistiamo psicofarmaci perché siamo depressi, figuriamoci. Grazie Andrea, grazie per essere stato con noi, Andrea Bertaglio. Adesso noi tra l'altro andremo proprio a vedere uno di questi filoni, parleremo dei distretti di economia solidale, cioè parliamo sì di qualche cosa che ha a che fare con l'agricoltura di sostentamento, tutto quello che volete, ma anche di aziende e consorzi che fatturano milioni di euro. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 800 24 00 24, andiamo con Emilia che ci chiama dalla provincia di Genova. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo dare la risposta sulla domanda, sì. Non è l'unica ad avere talento in famiglia. Allora, come? Il nostro quiz, dico. Sì, quiz. Potrebbe essere Rosario Fiorello? Quale sarebbe la notizia della settimana? Ah, bisogna dire anche la notizia della settimana. No, cioè, diciamo che il gioco è un personaggio che ha una notizia, no? Della settimana, e quindi è anche un po' questo il gioco. Ci incuriosirà, allora, nel senso che c'è molto chiaro perché ha detto Fiorello, nel senso che il talento in famiglia ce l'ha anche il fratello. Però ovviamente noi cerchiamo un personaggio che è legato a una notizia di questa settimana. Quindi magari c'è sfuggita una notizia incredibile su Fiorello e se ce la diceva eravamo contenti in questo senso. No, è sfuggita. È a me che è sfuggita la prima parte della domanda. Allora, diciamo che poteva intuire che non è lui, comunque. Non è lui. Grazie Emilia, grazie per aver giocato con noi. Grazie mille. Buona giornata. Giuseppe da Ragusa. Ciao, sono i radioascoltatori. Secondo me Caparezza è stato intervistato in un programma radiofonico, c'è stato proprio un programma dedicato a lui questa settimana, lo ritengo un bravo professionista. Io mi sono avvicinato un po' al rap grazie a lui, perché ero scettico. Ma qual è l'altra persona che ha talento in famiglia? Allora, io so che nella famiglia c'è qualcuno che ha talento e comunque sia adesso non si ricorda. Il personaggio della settimana, secondo me, sì, è Caparezza. Va bene, no, non era lui. Non era ci lui. Spiace. Okay. Grazie, Giuseppe. Saluto quelli che mi conoscono. Ciao, buon lavoro. Ciao, grazie ciao, mille. Dice, lo so che c'è un altro, però adesso mi sfugge qual è quella curioso famiglia. Anche sì, in questo caso, diciamo, forse a parte che la notizia, qualche papà o mamma musicista che ha studiato, non lo so. Sì, diciamo che anche la notizia di solito che scegliamo è anche un po' magari piccola, però è una notizia, non è aver fatto un'intervista, sì, in radio. Giuliano dalla provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. No, niente, io volevo intervenire sul fatto che il nostro sindaco del consiglio, presidente del consiglio, sì, sbaglia i termini a proposito della decrescita, a proposito della decrescita felice, la confonde con la recessione, con la recessione. Diciamo che siamo quasi al ridicolo se vogliamo proprio andare, diciamo, io non riesco a capacitarmi del fatto che ci sia un pressapochismo così evidente da parte di una delle più alte cariche dello Stato. Sì, quindi c'è da chiedersi se in realtà sia solo pressapochismo o se in realtà volesse anche, sì, colpire, diciamo, anche un po' Grillo, il Movimento 5, sì, Stelle. Voleva smarcarsi un po' da quel mondo lì della decrescita, sì, perché vuole presentarsi come il campione della crescita invece. Mi scusi, sì, però è un errore madornale, io penso proprio non lo sappia. Va bene, questo è possibile. Questo grazie Giuliano, grazie. Buona giornata. No, l'ho capito, la fa pensare male che Renzi sia ignorante. Anche perché per un attimo ho pensato che ci desse Renzi come risposta del personaggio della settimana. Allora stavo pensando in famiglia quale altro talento, pensavo che si andasse sul padre e si stava aprendo una voragine di talenti, diciamo, su avvisi di garanzia in company. Adesso facciamo un passo in avanti su questo tema della decrescita o dell'economia alternativa, perché parliamo dei distretti di economia solidale. Make a kind of place. With my own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands. Allora, come detto, parliamo dei distretti di economia solidale, perché dopo i gruppi di acquisto solidale, già più noti, dove le persone si mettono insieme, fanno acquisti di prodotti, insomma, di ortofrutta in genere, anche i cosiddetti gas, saltando la grande distribuzione, ricercando la qualità e una vicinanza con il produttore, adesso scopriamo che c'è un passo in più, è quello del distretto di economia solidale. I cosiddetti DES, io sono qua solamente per gli acronimi. Adesso vediamo di capire di che cosa si tratta. Abbiamo convocato Giuseppe Vergani del DES della Brianza, il DESBRI. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Siamo tutto orecchie. Ci spieghi lei che cosa è che fate in questi DES, che tra l'altro leggiamo consorziano tante persone, associazioni, enti, cooperative, e fatturano anche svariati milioni di euro. Siamo rimasti molto sorpresi. Gli associati, insomma, non tanto, sì, i distretti in quanto tale. Allora, gli distretti di economia solidale sono chiamiamolo un grande esperimento che si sta svolgendo in tutta Italia e, come spesso capita in queste cose, un po' sotto traccia, senza che molti se ne accorgano. Sono il tentativo di connettere nei vari territori i consumatori, le aziende, i professionisti, le cooperative, le associazioni, insomma, quanti pensano un po' le cose che stavate dicendo prima, quanti pensano che l'economia non si risolva nel PIL, conti anche la qualità della vita e dello stare insieme, conti anche la qualità del paesaggio, di quello che si mangia, del proprio tempo, eccetera. Tutte cose che oggi nell'economia di mercato appunto non vengono valorizzate, vengono neglette, diciamo così. Sì, allora, però voi del Desbri della Brianza in particolare, per esempio, come cosa fate? Allora, come facciamo? Mettiamo insieme tutte queste persone intorno a un tavolo in cui, come dire, cerchiamo di sviluppare delle progettualità per il nostro territorio. Ad esempio, uno dei tanti esempi è quello di articolando la filiera del pane per rispondere a un bisogno dei gas che hanno espresso su questo territorio. Oppure iniziando a valorizzare lo scambio interno. Molte di queste cooperative, ad esempio, tutte hanno dei bisogni, tutte credono in un'economia alternativa e tutte risolvono questi bisogni di fornitura, ad esempio, nel libero mercato. Il tentativo è quello di chiudere un po' il cerchio dentro, in distretti, quindi distretti territorialmente definiti, di economie alternative. Quindi io ho bisogno di qualcosa, cerco primariamente dentro nel distretto se c'è qualcun altro che lo fa. Quanti siete lì in Brianza? Uno dei più grandi nel DES? Allora, il distretto della Brianza ha 12 soci economici, che sono anche consorzi di cooperative, quindi con centinaia di aziende e una trentina di soci tra associazioni, eccetera. Poi ce ne sono, in Lombardia ce ne sono una dozzina di distretti, alcuni più maturi, altri all'inizio. Tutta Italia sono una cinquantina di esperienze, alcune molto interessanti e la cosa altrettanto interessante è che sono molto diversificate come sono diversificati i territori. Mi scusi, le faccio una domanda stupida che è un po' il mio ruolo qui nella coppia, perché quello che mi chiedo è, mentre il gas, comprendevo il meccanismo per cui, che ne so, un condominio oppure delle persone, un piccolo gruppo si mettevano tutti d'accordo e dicevano ma scusate, compriamo tutti insieme il latte, compriamo tutti insieme di modo che abbiamo un prezzo migliore o comunque dei vantaggi per il tipo di trasporto perché non ce lo portano in macchina e così via. Più si ingrandisce però la base, diciamo, più si arriva a una situazione, adesso esagero ovviamente, più simile a quella che già esiste, quindi la regione, lo Stato, diciamo la globalizzazione. Quindi mi chiedevo, mentre mi è molto chiaro il fatto di rimpicciolire queste unità, diciamo, nel momento che queste unità si inizia a rimettere tutte insieme, mi chiedevo che cosa succede. Ecco, succede che cerchiamo di non ripercorrere percorsi già noti e di mantenere la scala territorialmente circoscritta, quindi non crescere in termini quantitativi ma crescere in rete. Quindi le unità rimangono, le unità anche di produzione, le filiere rimangono relativamente piccole sui territori, si connettono in rete con altri. Cioè di recuperare, diciamo, l'esperienza del gruppo più piccolo cercando di mantenere quelle qualità anche su un gruppo più allargato. Anche su gruppi più grandi, ma soprattutto non facendo crescere un gruppo, facendo crescere una rete, quindi tanti nodi territoriali, sono nodi che rimangono relativamente piccoli, che si connettono tra di loro. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo insieme a Giuseppe Vergani del DES della Brianza. Le stavo chiedendo qual è il vostro rapporto, diciamo così, con il mondo della decrescita felice, cioè di quell'economia che cerca di ridurre gli sprechi, di avvicinare così i bisogni, no, delle persone, le risposte ai bisogni, oppure no? Cioè se voi pensate di far crescere l'economia, giriamola così, oppure no? Allora, noi pensiamo che l'economia, esattamente come insomma, gli amici della decrescita felice, pensiamo che in realtà il problema della crescita sia un grande abbaglio. Le notizie sul traffico lo stanno dimostrando, sono quello che state dicendo poco fa. Insomma, se questa è la crescita, insomma, è il dibattito anche di qualche minuto fa. Si può fare economia senza necessariamente fare crescita, dipende da come si fanno i conti. Se noi teniamo dentro la qualità della vita, teniamo dentro la qualità del tempo, delle relazioni, la qualità delle nostre città, questa economia non è cresciuta negli ultimi 50 anni. Se invece consideriamo altri aspetti come la possibilità di stare bene, di sprecare meno, di valorizzare quello che si ha, no? Forse questo spreco è banalmente un modo sbagliato di fare i conti. Si conta come crescita invece il non dare valore a cose che valore l'hanno, come l'acqua, l'aria, la terra, il tempo che dovremmo vivere. Quindi sicuramente il nostro approccio al fatto economico è esattamente quello. Insomma. Va bene. Cerchiamo di dare valore alle cose che ce l'hanno. Benissimo, grazie mille. Buon lavoro. Buona giornata, grazie. In bocca al lupo per il Desbri, il DES della Brianza. 800 24 00 24. Facciamo. Dobbiamo dare degli altri indizi? No, ascoltatore, va a Fiorenzo. Poi in chiusura del blocco diamo un altro indizio. Fiorenzo, buongiorno. Non c'è Fiorenzo, allora vediamo. No, no, ci sono. Prego, vada. Buongiorno. Allora, io volevo tentare Renzi. Parla del gioco? Parla del gioco. Perché sì, Renzi? Del gioco. E ci dica intanto chi è l'altro che ha talento in famiglia? Prego. Come mai ci dice Renzi? Perché vabbè, il padre è comunque indagato, ma non necessariamente. Non è un talento. Però questo. Parliamo di talenti, quindi se diciamo non che tutti e due hanno lo talento, ci sta dicendo che lo stesso talento è quello del figlio e quello del padre? Ma è lo stesso, no, però non è solo ad avere i talenti Renzo Figli, perché anche il padre si è dato da fare comunque. Mm. Ah, ok, sì, perché è un imprenditore, eccetera. Vabbè, beh, sulla notizia non glielo chiediamo, perché su Renzi ce n'è almeno 4 ogni giorno di notizie, quindi. A quale pensava di notizie per questa settimana? Vabbè, ce ne sono talmente tante. No, dai, non è comunque lui, dai. Grazie non è, Fiorenzo, non è, grazie mille. Non è Renzi. Buona domenica. Renzi. Adesso, anche se abbiamo poco tempo, salutiamo Massimo Temporelli. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Massimo Temporelli è un fisico, è uno scrittore, è un divulgatore, presidente di Fab Lab. Che cos'è Fab Lab? The Fab Lab Make in Milano è uno spazio di progettazione condivisa, uno spazio dove stampanti 3D, maker e tutta la rivoluzione della digital fabrication ha luogo, ecco, insomma, dove noi diamo lo spazio a chi vuole esprimersi in questi nuovi tempi, è benvenuto. Uno sguardo sul futuro lo vogliamo utilizzare per così avere un appuntamento magari anche settimanale, vediamo, per parlare anche dei lavori del futuro, un tema che ti sta molto a cuore, Massimo, e noi questa settimana anche solamente per capire le stampanti in 3D, già, secondo, sì, a me già interessa moltissimo, che è sempre il mio sogno capire. Ho letto che ieri che stampa. È stata costruita la prima automobile, tra l'altro fatta da un designer italiano, italiano, sì. Completamente fatta con pezzi stampati dalla stampante. Cioè, pazzesco. Tu paghi 20.000 vero, euro Massimo? E ti mandano un file che tu devi stamparti a casa tua invece che un'automobile. Sì, spero che costerà molto di meno il file rispetto agli atomi che compriamo di solito nelle fabbriche. Però sì, l'idea è che ti arrivi a casa il file e tu piano piano te lo stampi o in un Fab Lab come il nostro oppure in un Fab Lab della tua città, ormai sono ovunque. L'idea che tutte le mattine devo anche stamparmi il motorino mi sembra veramente troppo difficile. Ma non lo stampi una volta nella vita. Ah, pensavo che poi Gabardini non ha molto chiaro il concetto di stampante. Di stampante in 3D. Vabbè, questa è una cosa da approfondire. Ma dopo me lo spieghi molto volentieri. Senti, Massimo, noi volevamo partire oggi dalla questione di uno dei nuovi mestieri, il pilota di drone. Ora però, sì. Siccome siamo andati un po' lunghi e siamo in chiusura, non è che possiamo bruciarci l'argomento così in 30 secondi. Facciamo che ne parliamo meglio domenica prossima. Dai, iniziamo così a conoscerci e poi... Sì, il senso del nostro incontro è quello di guardare sul futuro e soprattutto sul lavoro del futuro, che è stimolante. Io così sono magari... contentissimo di questa cosa, così magari trovo anche un lavoro per me. Diamo anche una mano come stagista, andrò avanti molto. Grazie Massimo Temporelli, ci troviamo domenica prossima. Mille. Allora parleremo... di questa nuova tendenza, piloti di droni, ragazzi, è una cosa, ma veramente, cioè, è aperto una scuola, cioè stiamo parlando di una cosa vera. Ho girato un film con dei droni, ma ne parliamo settimana prossima. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Questa canzone ce l'ha segnalata l'ascoltatore Fabrizio De Carlo. Continuate a segnalarci il vostro Si può fare in musica, perché My prima Type, o poi faremo Motel. Il CD, scusami, faremo il CD e faremo, pubblicheremo, no, non credo. Certo. Ah, dici? Assolutamente, anzi faremo la musica setta perché siamo per la decrescita. Allora, a proposito di decrescita, un po' di messaggi al 3492386666. Allora, c'è chi dice affascinante la decrescita, ma se tutti fanno il pane in casa e le piccole riparazioni, che ne è dei panettieri? Chiede Laura da Bergamo. Bella domanda. Infatti proprio la decrescita sta proprio lì al confine, tra l'economia come l'abbiamo conosciuta sempre fino ad oggi e un'altra economia più di sussistenza, dove qualche panettiere fa, perde il posto, cioè la gente fa il pane a casa. Sì, è possibile. È possibile. Se il pane delle costa altre troppo, cose, a un certo punto uno che deve fare. O magari, forse finalmente il pane appunto non costerebbe più 5 euro al chilo come a Milano. Io preparo delle ottime pizze, ma fare il pane in casa comporta un dispendio notevole di energia elettrica, a meno che uno non disponga di un forno a legna. Fidatevi di una che è nata in una famiglia contadina. Cioè, questa ascoltatrice mette in discussione il fatto che fare le cose fatte in casa costi di meno. Boh, non so. No, è che bisogna disporre del forno a legna, che effettivamente non è facile. Oppure ti fai la pizza col forno elettrico. Non è particolarmente buona e probabilmente non risparmi neanche particolarmente tanta energia. Giuseppe dalla provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. E a tutti gli ascoltatori. Niente, io volevo farvi partecipi di due piccoli, forse ingenui sì. pensieri che mi sono venuti in mente ascoltando la vostra trasmissione. Prego. Allora, la decrescita felice in una situazione come la nostra mi sembra un discorso abbastanza ipocrita. Situazione di una società basata sul consumismo, tu riduci gli sprechi, riduci le vendite, riduci la produzione, riduci l'occupazione, i redditi, riduci il potere d'acquisto, cosa fai? Riduci gli sprechi, riduci le vendite, riduci la produzione e andiamo all'infinito. Invece questa... bisogna andare avanti a produrre cose inutili? No, la produzione, purtroppo l'economia che si basa sul consumismo deve far consumare. A un certo momento, quando hai fatto consumare le cose utili, devi far consumare quelle inutili. Però forse bisogna uscire da questo circolo vizioso che ci ha portato alla crisi in cui siamo oggi. Quindi secondo, non è ipocrita, diciamo. Considerazione. Allora, i redditi bassi spendono tutto e spesso non arrivano a fine mese. Mm-hmm. Quei pochi redditi super alti, abbiamo sentito parlare di manager che prendono cifre astronomiche, non riescono a spendere tutto. E cosa fanno? Sequestrano dalla circolazione del denaro somme ingenti che diventano improduttive, se non addirittura vanno a finanziare il mercato speculativo che non produce sì, e quindi, in questo modo riducono la circolazione di denaro. Quindi i discorsi sono questi due su cui uno dovrebbe pensare prima di dire che è facile uscire da quella che è l'economia consumistica. Ma non abbiamo detto che è facile. Grazie Giuseppe, non abbiamo detto che è facile, abbiamo semplicemente domandati insieme a Andrea Bertaglio che cos'è questa decrescita felice che Renzi ha preso di mira, tutto lì, abbiamo cercato di capire un po'. Ah, vogliamo dare l'indizio? Sì, signori. Diamo un altro indizio per il nostro quiz. Cioè, stiamo cercando il personaggio della settimana, al quale è legata una notizia di questa settimana. Il primo indizio era: in famiglia non è il solo ad avere talento. E il secondo indizio è: vuole fare la chiappa fantasmi. E vai. Abbiamo Narno che ci chiama da Bergamo. Narno? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Giuseppe da Torino ha detto cose molto sensate. Io vorrei solo dire un paio di cose sulla decrescita felice che è molto confusa come idea, perché l'efficientamento energetico è quello che l'industria fa praticamente da quando è nata, non c'entra niente con la decrescita, perché da sempre noi produciamo macchinari sempre più efficienti, questo serve a ridurre i costi e a fornire più servizi a costo minore. Sì, però più efficienti, ma non in realtà che consumano meno. Questo il concetto della decrescita è più sul consumo di dell'industria energetica. No, assolutamente consumano sempre meno, vanno sempre più veloci, portano sempre più merci. Non c'è confronto fra adesso e 50 anni fa. Cioè, un'automobile di oggi consuma meno di un'automobile di 30 anni fa? In rapporto al peso, in rapporto alle prestazioni, in rapporto al costo, assolutamente in rapporto al chilometro, diciamo. Io oggi ho uno scooter che consuma tot al chilometro, la Vespa di 20 anni fa mi sembra che consumasse di meno, però mi sbaglio forse, ma non lo so veramente, glielo chiedo. Forse andava meno veloce, era meno comoda, eccetera eccetera. Però è questo. Infatti la differenza è proprio quella, è che la decrescita si interessa proprio al risparmio dell'energia, non tanto dell'efficienza, come diceva lei. Sono due concetti che possono andare di pari passo, ma anche no. Ma l'esempio era sul risparmio dell'energia, per esempio per riscaldare gli ambienti, no? Quel tipo di efficientamento energetico. Questo risparmio implica più tecnologia, più ricerca, più un sistema industriale più globalizzato e in ultima analisi più investimenti e più PIL. Va bene. È solo così, i pannelli solari non li fabbrico a casa. Sì. E la seconda cosa è che sì, se io faccio il pane a casa, sì, se io faccio il pane a casa, questa è una scelta molto graziosa, io lo faccio, però ho bisogno di farina industriale. Perché se la farina è fatta in modo non industriale, costa 10 volte di più. Va bene, compriamo la farina industriale, se uno si diverte a fare pane in casa va bene, no? Che male c'è? Io devo comprare la farina al supermercato e se voglio che costi 30 centesimi al chilo, sì, deve essere farina industriale. Altrimenti non costa 30 centesimi al chilo. Beh, costerà un po' di più, però io risparmio sul fatto che non vado a comprarlo infatti in panetteria e quindi riesco a pagare invece la farina 55 centesimi invece che 42, perché vado a prenderla dal mulino. Questo è diciamo il paradigma. Ecco, poi il mulino è un mulino industriale. Ma no, non è detto. Nessuno macina la farina a pietra con i cavalli o con gli asini. Vabbè, se con industriale intende che c'è dell'energia, d'accordo, però. Nanno, grazie, dobbiamo fermarci qua, abbiamo il traffico, perché l'errore secondo me qua è proprio questo, cioè di pensare che la decrescita sostituisca completamente tutto il resto dell'economia. Non è così, cioè non è che si torna all'età della pietra. Bertaglio l'ha detto bene, sono scelte che possono essere modulate in vario modo. Se non si fa il pane in casa con la farina industriale va benissimo, non è che bisogna per forza tornare al macinare il grano a mano. No, ma questo è chiaro, non è così. Si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Facciamo ancora un'ascoltatrice, Lucia da Milano. Buongiorno. No, volevo provare a dare la soluzione, però prima volevo dire una cosa veloce, sì, sulla decrescita felice. Sì, vada. Se io avessi una decrescita del mio corpo della strega sarei felice. Non ho capito, come, scusi? Se avessi una decrescita del colpo della strega che oggi, sarei felice. Ah, questa è una battuta di Lucia. È ottimo, certo. Una battuta. Va bene. No, volevo dire, secondo me, però dal secondo indizio penso di sbagliato, Sofia Loren, che compie gli anni e in famiglia ci sono altri i figli, che uno è direttore d'orchestra, l'altro è regista. Giusto. Fin lì ci stavo. Quando poi abbiamo detto che fa la chiappa fantasmi, allora non credo che non ci sta più. Infatti non è. Ma chi lo sa? Bisognerebbe andare a recuperare dei film, magari lo si trova anche un film in cui fa la chiappa fantasmi. Comunque purtroppo non era lei, ma la ringraziamo molto di aver partecipato. Grazie. Paolo, buona domenica. Paolo da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Io proverei dicendo Roberto Benigni. Mm-hmm. Perché? Qual è la notizia? Che è partecipato a Vallarò come ospite. E la moglie è un'attrice famosa, Nicoletta Braschi. Sull'ultimo indizio però mi sono troppo spiazzato, ma ormai avevo questo in mente. E va bene, infatti grazie Paolo, non era Roberto Benigni, anche se con il piccolo diavolo forse verso i fantasmi ci si poteva arrivare, però non era lui. Diciamo che no, cosa dobbiamo dire? Niente, diamo un altro indizio, no? Aspettiamo. Ma sì. Lo diamo? Vai. E dallo. Lo do io? Vai. Diciamo che vuole arrestare la fuga dei cervelli. Così. 800 24 00 24. Non c'è niente che mi tenga frenato, il contrattacco è iniziato, partito. Ti slancio come un fulmine, travalico ogni limite, che intorci la mia crescita e pregiudichi il buon fine. Di questa operazione rimica, uso la metrica come una sciabola, tagliente rapida affilata, come una spada appiattata, come la mia squadra che mi segue ovunque vada. Il mio DJ stile fa ruotare a mille all'ora, il vinile intorno al perno, scatena l'inferno sulla terra, dichiara guerra, la tacospera e ti sotterra, in un mare di merda. Non sono un compagno ma un bimbo, in effetto nella casa. E faccio la mia cosa. E faccio la mia cosa nella casa. Faccio la mia cosa nella casa. Faccio la mia cosa. Allora, faccio la mia cosa nella casa di Frank Energy. L'abbiamo scelta come sigletta, diciamo così, di questo spazio che stiamo dedicando a una iniziativa di cittadinanza attiva che sta cercando di censire le iniziative che ci sono in Italia per recuperare gli spazi pubblici abbandonati, spazi di edilizia, soprattutto edifici abbandonati, comuni, regioni, caserme, province. C'è di tutto in mezzo. L'iniziativa si chiama Disponibile e insomma stiamo insieme a loro monitorando quello che si fa un po' in Italia da questo punto di vista. Salutiamo Isabella Inti, presidente dell'associazione Tempo Riuso. Salve, buongiorno Maurizio Alessi. Ciao Isabella, Maurizio Alessi, non è Alessio Maurizi, perché noi ci conosciamo da tempo, nel senso che abbiamo cominciato a raccontare la storia di Tempo Riuso un po' di tempo fa, insomma, con le vostre iniziative. Voi di cosa vi occupate? Prima che io arrivassi. Prima che arrivasse Carlo, sì. Sì, noi siamo nati nel 2009, siamo un'associazione culturale che dopo aver sperimentato in diversi contesti, a Bruxelles, ad Amsterdam o ancora a Berlino, la possibilità di riusare temporaneamente spazi ed edifici in abbandono, in quel tempo di mezzo, talvolta breve ma talvolta molto lungo, tra una vecchia destinazione d'uso e una successiva, per ridarli a realtà appunto che potrebbero utilizzarlo come spazi espositivi, come studentati, come spazi di lavoro. Sì. Prima appunto di decidere che cosa se ne farà, abbiamo voluto importare questa pratica in Italia, per cui dal 2009 abbiamo iniziato a sperimentare dei primi progetti sia a Sesto San Giovanni che a Milano o ancora a Perugia, e poi siamo ritornati di nuovo a Pristina in altri contesti europei. Ecco, quali sono i risultati anche di questo vostro lavoro per il quale Cittadinanza Attiva ha pensato di segnalarvi e di mettervi in rete fra le esperienze positive? Ci sono dei quartieri a Milano, delle zone in particolare, degli spazi che siete riusciti a recuperare? Allora, sì, penso che la richiesta sia un po' duplice, nel senso, da un lato raccontare delle esperienze attivate e nell'altro dare dei suggerimenti, come abbiamo fatto di recente anche con un libro che si chiama Tempo Riuso, manuale per il riuso temporaneo di spazi in abbandono in Italia, edito da Altra Economia con il sostegno della Fondazione Cariplo, che anche proprio l'altro giorno abbiamo presentato alla Triennale di Milano. Appunto, siamo partiti da esperienze personali, per cui da aspetti di difficoltà, di criticità nell'interloquire con la proprietà pubblica e privata per far capire che si può fare appunto riattivare degli spazi anche se ancora non è chiara la loro destinazione d'uso futura. Come ad esempio a Milano anche dall'anno scorso è stata riaperta la Palazzina 7 in Viale Molise 62, un edificio che appunto che parte di un complesso molto più ampio, sì, di altre palazzine o anche dell'area dell'ex macello. E che cosa avviene adesso in questa palazzina? Perché quando sentiamo dire che si riapre, di Macao? Siamo molto felici, eh? Allora, vicino anche alla palazzina di Macao, che è molto più ampia, la nostra più piccina, si è voluto sperimentare appunto come sia possibile ridare il piano terra con un bando in coordinamento con il Consiglio di Zona 4, che è stato vinto da 3 associazioni. Un'associazione Fucina e Vulcano, che fa ciclofficina, un'associazione di arte pubblica che si chiama Orcommerce, che lavora con il quartiere, e un'altra che si chiama appunto El Modernista, che lavora con i bambini per il dopo scuola. Mentre al piano superiore c'è un appartamento per studenti di università pubbliche che appunto sono stati molto felici di non dover pagare un affitto. Perfetto. Ma soltanto le spese di Isabella, manutenzione. Isabella, una cosa che ti voglio chiedere però è questa, sì, cioè esatto, le spese di manutenzione, questa palazzina per esempio, perché sì, quando parliamo di edilizia pubblica abbandonata immaginiamo cose un po' messe male, insomma, relitti, c'è stato un intervento che è costato di restauro a qualcuno oppure no? Allora, in realtà la palazzina, come altre, non tutte sono deterioratissime, per cui bisogna sempre, e questo lo spieghiamo bene anche nel manuale, fare appunto una checklist di che cosa va, cosa non va, molto sì, franca, per capire anche che opere di manutenzione ordinaria o straordinaria si devono fare. La straordinaria, dato che il riuso è temporaneo, non si può accollare alla realtà che andrà a essere usufruttuario, al gestore, ma deve essere la proprietà a doversene fare carico. Per fare un esempio, in questo spazio specifico il tetto andava bene, tutto era in ordine, mancava l'impianto elettrico, per cui la proprietà si è fatta carico prima di ridarcela. In questo caso il comune? In questo caso una società partecipata che si chiama Sogemi, Società appunto okay, Generale dei Mercati Milano. Sì. Di fatto l'impianto elettrico è stato che era già appunto nel loro piano di ristrutturazione, per cui non è stata una spesa in più, e si è solo deciso da parte loro di darla come prioritaria, come attività rispetto ad altre. Messa diciamo in sicurezza lo spazio, poi è il gestore e l'usufruttuario che farà anche la manutenzione ordinaria, per cui studenti, associazioni si sono messi la loro bella tuta di lavoro, hanno imbiancato appunto le pareti, hanno stuccato le finestre, hanno guardato se altre piccole cose di manutenzione andavano fatte. Ma scusa, posso fare una domanda? Prego. Ma quanto tempo ci è voluto, diciamo, da quando avete localizzato il luogo a quando le associazioni sono entrate e sono, diciamo, diventate attive all'interno dello stabile? Allora, ci è voluto più tempo per far capire alla proprietà la fattibilità e si può fare di cui tu parli, per cui abbiamo contrattato circa 6 mesi. Una volta ottenuto lo spazio non abbiamo perso tempo, abbiamo da un lato fatto il bando e subito abbiamo messo dentro 3 studenti pionieri, Veronica, Giovanni e Eugenio, che per il mese in cui c'era aperto il bando aprivano le porte per far vedere quale sarebbe stato lo spazio disponibile sia per studenti che per associazioni. Abbiamo fatto anche degli aperitivi per coinvolgere il quartiere, altre realtà. No, scusa, ottimo gli aperitivi, però no, perché il dubbio che avevo è che ci vogliono dei tempi biblici, perché se uno va a Berlino effettivamente scopre questa cosa, che gli spazi vengono praticamente da una volta all'altra, che uno ci va in un posto dove c'era un locale improvvisamente c'è un'altra cosa, perché l'ha ripreso il comune, sai, della giustizia, della burocrazia italiana. Esatto, e per questo mi chiedevo se si è riusciti, diciamo, a sveltire questo tipo di pratiche, perché bisogna assegnarne 500 di palazzine a Milano nel tempo di 2 anni, non giusto? Certo, ma diciamo che al momento il Comune di Milano ha fatto uscire anche proprio negli ultimi 2 o 3 mesi veramente una 50ina di bandi per spazi, cioè 50 spazi, sì, quantomeno. Sì, anche le cascine. Esatto, cascine, negozi sottoutilizzati, spazi al piano terra e quant'altro. Sicuramente quello che noi stiamo proponendo anche con il Comune di Milano è una maggiore regia tra assessorati, per cui dopo 2 anni di lavoro anche con loro sarebbe molto utile ad esempio fare uno sportello per il riuso temporaneo, come succede ad Amsterdam, dove ci sono delle linee guida, per cui le possono fare diversi assessorati, ma le linee guida sono uguali, e soprattutto si fa comunicazione, perché se si fanno i bandi... bisogna dirlo, altrimenti rimane una cosa, il dubbio che hanno molti è che poi è una cosa che finisce sempre in mano ai soliti noti, e invece questi bandi devono essere pubblici, trasparenti, pubblicizzati, esatto, in modo che chiunque, anche mia nonna Pina, può partecipare. Esatto. Ma si lavora meglio con l'amministrazione adesso di Pisapia o con quella della Moratti prima? Che domande! Questa è la domanda. Ovviamente con l'amministrazione di Pisapia, anche perché subito quando si sono insediati, sì, è stato firmato nel 2012 un protocollo d'intesa per fare delle politiche e dei progetti di riuso temporaneo, per cui Milano è stata la prima a siglare proprio una politica pubblica di riuso temporanea. Anche perché, scusami, che se fai questa domanda a uno che collabora col Comune non ti potrà mai dire che non si trova bene, perché altrimenti gli chiudono la porta in faccia. Insomma, poi a volte dice anche la verità. È solo una battuta. Grazie Isabella. Grazie Inti, mille. Il tempo di uso per essere stata con noi. Grazie, andremo a voi. Ciao, andremo avanti a parlare di casi concreti anche al sud, perché non è che c'è solo il nord su questa questione, e c'è un'utilità anche per l'ente pubblico, per lo Stato, perché al di là dei costi di manutenzione che poi passano a chi entra dentro, c'è meno degrado, ci sono meno costi di manutenzione e si ospitano delle iniziative importanti, si dà, come dire, nuova linfa anche alla città, e questo è sicuramente un tema di interesse pubblico. 800 24 00 24, dobbiamo fare la pausa per forza, o posso fare un ascoltatore, Carmelo? Facciamo l'uomo del gioco, dai, che ho nostalgia. De Anna dalla provincia di Prato, buongiorno. Allora, per me è quel ragazzo di Lecce, ingegnere che ha inventato le turbine eoliche da installare sui tetti, secondo me indica, però il nome non me lo ricordo. Anna, bellissimo, non si ricorda il nome, io non ho capito bene, non sapevo di questa notizia, c'è un ragazzo di Lecce che ha inventato delle turbine? Un ingegnere di Lecce di 20 anni, sì, che ha inventato delle turbine o delle pale eoliche piccole da installare sui condomini, sui tetti delle case. Cioè invece dei pannelli, diciamo... Fotovoltaici. Dobbiamo assolutamente invitarlo, tra l'altro, perché a noi gli inventori piacciono molto. De Anna, però non era lui a cui avevamo pensato. Ci stiamo anche tutti chiedendo chi era l'altro in famiglia che avesse anche talento, un altro talento, sì, che sì, probabilmente fa fotovoltaico in e famiglia. Poi perché vuole acchiappare i fantasmi, secondo te, De Anna, uno così? No, non è che vuole cambiare, no, io mi sono persa la prima parte. Infatti c'erano un paio di indizi. La notizia della settimana. Sì. No, era tutto corretto, purtroppo però il personaggio non è corrispondeva con gli indizi. Grazie mille. Ciao. Allora facciamo la pausa, poi torniamo, poi a quel punto che faremo? Daremo un altro indizio o lo diamo già adesso? Diamolo. Con lui, mani in alto, non è una minaccia. Facciamo anche un riepilogo degli altri indizi, perché questa ascoltatrice dimostra che se uno si sintonizza solo adesso. Allora, in famiglia non è il solo ad avere talento. Benissimo. Vuole arrestare la fuga dei cervelli. Vuole fare la chiappa fantasmi. Con lui, mani in alto, non è una minaccia. Mi pare che di indizi ce ne siano parecchi. santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo, ben ritrovati, 800 24 00 24, tra poco riprendiamo anche a sentire i vostri interventi. Una buona notizia, Carlo, di questa settimana l'ha data il delegato di Confindustria per la legalità, Antonello Montante, che ha annunciato una iniziativa delle imprese associate di Confindustria con l'inserimento di un impegno di norme contro la corruzione nel codice etico di Confindustria. Confindustria che è impegnata da anni nella lotta contro il pizzo e la sfida al racket, per esempio, e quindi con l'espulsione delle imprese che non denunciano, adesso lancia una nuova iniziativa. Ci sono troppe inchieste che dimostrano che il nodo della corruzione è ancora molto vivo, il nodo malato tra politici corrotti e imprese, e allora ecco che le imprese fanno lo scatto di reni. Antonello Montante, buongiorno. Buongiorno a tutti. Siamo molto lieti di averla qua. Allora, qual è l'iniziativa che state studiando, anche un po' rispondendo a quella che era stata la richiesta di Cantone, Raffaele Cantone, che si occupa proprio di questo e che ha detto tutti devono fare la loro parte? Ma per noi di Confindustria naturalmente si parla di normalità o ripristino della normalità dove non c'è, tutto naturalmente all'insegna di far diventare un paese sempre più competitivo e più, quindi in qualche maniera più innovativo. Noi abbiamo ringraziato l'invito, in qualche maniera lo sprono di Cantone a dire fate quello che avete fatto con il codice etico per contro le aziende vicino alla mafia, vicino alle criminalità organizzata. Di fatto noi stiamo facendo questo, ma già nel codice etico attuale ci sono tante norme più restrittive. Non dico quello di espellere l'imprenditore nella fase così in qualche maniera dell'indagine, ma quando c'è una prova lampante, quando c'è una condanna, quando c'è un rinvio a giudizio, naturalmente il codice etico prevederà in qualche maniera una sanzione, quella famosa sanzione sociale. Ma lo scopo non è quello di cacciare gli imprenditori collusi, è quello di cambiare culturalmente l'imprenditore a non corrompere più, perché questo in qualche maniera crea una sorta di concorrenza sleale a tutti quegli imprenditori che vivono di vero mercato, quindi in qualche maniera calpesta la concorrenza, scoraggia qualsiasi forma di innovazione e investimento. Senta Montante, ci sono diverse inchieste attive sul fronte di appalti, di grandi lavori, opere, Expo per esempio, insomma ne cade uno alla settimana, quasi verrebbe da dire, purtroppo. La sua sensazione è che diciamo ci sia un ritorno per qualche motivo anche della corruzione, un aumento, oppure che cosa? Io quando dico che è un problema culturale, negli anni abbiamo assistito a una sorta di vando dell'imprenditore che paga una richiesta estortiva, perché comunque si tratta sempre molte volte di una richiesta estortiva, anche non scritta, perché si creano spesso e volentieri degli imbuti, dei percorsi obbligati dove l'imprenditore in qualche maniera a volte è costretto, a volte trova la convenienza di pagare. Quindi questa è una guerra in qualche maniera con dei corrotti che non si deve fare da singoli, si deve fare in qualche maniera insieme alle istituzioni. Quindi in qualche maniera bisogna avere il coraggio di stare insieme con le istituzioni delegate, con la Presidenza Cantone, con l'autorità giudiziaria, con i magistrati, e forse culturalmente in qualche maniera cambieremo le cose anche all'interno del sistema imprese. Secondo me con questa accelerata di Confindustria qualcosa può cambiare. Io me lo auguro, siamo tutti convinti in Confindustria che è l'unica strada da perseguire. Io la ringrazio, so che fra l'altro deve prendere un aereo Antonello Montante. Sì, sono quasi pronto. È quasi dentro praticamente, l'abbiamo strappato un attimo a questo viaggio. Grazie mille grazie per essere stato grazie con mille. Noi. Il delegato di Confindustria per la legalità, avete sentito, questa è sicuramente una buona notizia, perché tutti devono fare la loro parte, insomma, su questo tema della lotta alla corruzione. 800 24 00 24, volevo dire a chi dice che siamo faziosi con un simpatico sms al 349 238 6666, che in realtà io sulla decrescita felice non ho una posizione precisa, non so nemmeno se sono a favore o meno, quindi per dire quanto sono fazioso su questa questione. Basilio dalla provincia di Roma. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, ben trovati, buona domenica a tutti quanti e grazie a Radio 24 che esiste. Volevo dare un nome nuovo alla decrescita felice. Sì. Io proporrei crescita consapevole. Ah, crescita consapevole, beh sì, è un po' anche nelle... Io credo che il nome decrescita infelice sia un nome un po' infelice, infelice. Perché suscita questa confusione con la recessione, eccetera, eccetera. Tra la recessione e quest'idea che dobbiamo tutti diventare dei contadini che si fanno il pane, che non è questa la questione. E invece la crescita consapevole è un bel tema, beh sì, insomma, è anche un bel nome. Basilio, grazie, che dire, cioè, non so, non sarà la prima volta che qualcuno propone... di aprire anche un filone di questo tipo, che ne so, però vediamo se passa. Poi in realtà sì, poi il concetto di decrescita in realtà se preso dal punto di vista giusto è corretto, nel senso che appunto si intende semplicemente di non andare a inseguire una crescita fine a se stessa. Poi se uno invece nella decrescita immagina che dobbiamo vestirci con l'aiuta, no, allora quello è un'altra questione. Io infatti mi trovo bene nell'idea di Basilio, nel cotone di... No, nella crescita consapevole, mi piace molto questa espressione. Non era difficile arrivarci come concetto, però ma adesso hanno pubblicato un sacco di libri, non si può cambiare il nome in corsa, diciamo. C'è anche il sito, come fai? Claudio da Torino, buongiorno. Senti, volevo aggiungere una cosa. Buongiorno. Tutte sulla famosa decrescita felice. Sì. Che mi sembra l'atteggiamento tipico di chi ha la pancia piena, non ha problemi di crescita, e questo vale sia per i privati che per i paesi. Io vorrei che questi signori andassero a propagandare queste idee nei paesi che si stanno cercando faticosamente di svilupparsi, come verrebbero accolti. La battuta invece può essere semplicemente... Però guardi che questo lei, volendo, ha toccato un aspetto, però riguarda noi proprio per questo, proprio perché da noi l'economia, diciamo, ha raggiunto un livello tale per cui immaginare una crescita dell'8% è impensabile, quindi dobbiamo immaginare altri modelli, ecco perché attecchisce da noi e non in Cina, questo è ovvio. Certo, però volevo capire questo vale anche per gli stipendi di quelli che lo propugnano? Cioè? Questo signore che prima, il primo signore che ha parlato della decrescita felice, se mi ricordo bene, è un giornalista della stampa. Andrea Bertaglio, sì. Esatto. Cioè, se il suo datore di lavoro gli dice: se senti caro, visto che tu propugni la decrescita felice, ci tagliamo lo stipendio del 10%. Ma perché? Ma guardi che la decrescita non vuol dire mica essere pagati meno, mica vuol dire essere pagati di meno, certo. Vuol dire mettersi in una condizione per cui scusi, prego. Se lei taglia 100, sì, e le portano a 105, lei cresce, ha una crescita. Se lei da 100 scende a 95, ha una decrescita. Guardi, le do una notizia. Anche se lei va a 100 all'ora e poi va a 90 all'ora, però non è che la decrescita non è questo il punto. I semafori. Allora non ho capito. No, guardi, le do una notizia. Andrea Bertaglio, di cui lei vorrebbe che gli abbassasse lo stipendio. Aspetti, le do una notizia. È un collaboratore della stampa. La sua scelta di decrescita consiste proprio in questo. Lui non è un posto fisso, non è uno stipendiato e sicuramente guadagna già meno di altri colleghi o anche, per esempio, il sottoscritto, perché è un collaboratore, quindi lui è pienamente coerente, quindi da questo punto di vista non c'è, però, da abbassare nessuno stipendio. Al di là che lui sia coerentissimo, quello che sto dicendo è che la questione di decrescita non è desiderare di farsi pagare meno, sennò vuol dire che veramente non abbiamo spiegato niente. Perché per me in italiano la parola decrescita vuol dire diminuzione. Va bene, grazie a questo ascoltatore, ma non è qui oggi che potremo risolvere questa questione, cioè poi ognuno resta anche delle opinioni che ha, che vuoi farci? Mariolina da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Vada. Benissimo. Forte e chiaro. È il mio il personaggio, secondo me, è Montalbano, che ha anche un fratello talentuoso come presidente della provincia di Roma. No, cioè, Zingaretti. Lei ha fatto... Ah, certo. Sì. Quindi Luca Zingaretti... Luca Zingaretti. Perfetto. Proprio perché ne abbiamo parlato per la questione del trasferimento navigata in Puglia, eccetera. Ok, vabbè, però non era lui, a cui avevo pensato. Però la ringraziamo molto l'aver chiamato. La ringraziamo molto, grazie, benissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, allora, andiamo con un altro ascoltatore, che è Marco, che chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono io. Sì, sì, è lei. Buongiorno. Perfetto. Cioè, buongiorno. Non lo sappiamo se è lei, però è in onda. Noi siamo noi. No, perché di marchi ce ne tanti, non vorrei. Giusto. Bene, senta, io sono uno che da tempo applica il concetto della decrescita felice, perché ho una piccola impresa, eravamo sei persone che collaboravano allo sviluppo di apparecchiature per diciamo che si utilizzano nel restauro di opere d'arte, che a parentesi sono estremamente innovative, siamo dei pionieri in questo settore. Cioè una piccola impresa, però pioniere nel settore delle macchine per il restauro? Che macchine? Sì, no, macchine, diciamo strumenti per lo studio di opere d'arte, in particolare dipinti, sì, per vedere il disegno preparatorio e cose di questo genere. Strumenti ottici? Sì, strumenti ottici. Ah, okay. Quello che però volevo dire sulla decrescita felice è che allora eravamo sette tecnici che lavoravano, sì, avevamo un ufficio piuttosto organizzato, con laboratorio, magazzino. Oggi, grazie alla crisi, mi trovo a lavorare nella logica precisa della decrescita felice. Innanzitutto non c'è più nessun collaboratore, sono da solo, per cui faccio la banca, mi occupo degli aspetti fiscali, pulisco per terra, mi occupo delle piccole riparazioni, vado in banca, riparo, manutengo tutto. Quindi decrescita felice per me significa aver preso un piccolo capannone nel quale sotto c'ho un riscaldamento che mi riscalda più o meno quasi tutti i piani a 19 gradi anziché a 23, sì, risparmio, spendo un quinto probabilmente di lo spendevo allora, però rimane un problema: non ho più nessun dipendente né collaboratore e il lavoro va malissimo, va male, nel senso che lavorare così è sostanzialmente impossibile, cioè arrivare a degli standard di qualità, di efficienza, sì, è assolutamente impossibile. Quindi ci limitiamo a fare con colleghi che lavorano con altre aziende, per altre aziende o licenziati, stiamo sviluppando nuovi progetti, ma in condizioni assolutamente precarie. Però mi scusi, forse sbaglio, sono lo stupido dei due, quindi no, no. Però quello che mi sembra di nuovo è che stiamo parlando di recessione, perché lei sta dicendo: io prima eravamo in sette, lavoravamo, adesso a causa della crisi devo spendere molto meno, spendo un quinto di quello che spendevo prima, sono in uno scantinato, riscaldato poco e sono da solo. E su questo siamo tutti d'accordo, nessuno sta dicendo che ognuno deve lavorare da solo e non assumere più nessuno e in autarchia occuparsi del proprio lavoro. Non è questo quando parliamo di decrescita felice, cioè, anche perché questa mi sembra molto infelice quella che sta raccontando lei. Ma guarda, sì, in realtà è felicissima, perché io sto per certi versi meglio adesso di prima. Allora questo non ci aveva detto, questo non ci ha detto Marco. Io penso una cosa, mi faccio dire, poi la faccio concludere Marco. Penso questo, che la decrescita felice o infelice o scelte come quelle dell'ascoltatore Marco sono anche una reazione alla recessione, cioè se c'è la crisi io a un certo punto mi sveglio e devo cambiare qualche cosa, come ha fatto lui che adesso ha un capannone riscaldato di meno, spende di meno, risparmia qualche cosa e fa di necessità anche virtù. E lei però ci diceva, Marco, che tutto sommato, anche se ha meno collaboratori di prima, lei è un po' più felice di prima, perché? Diciamo è molto più facile per certi versi avere tutto sotto controllo, avere una struttura molto più piccola, quindi il mio lavoro per certi versi paradossalmente è più lineare. Spesso prima con sette persone da gestire diventavo pazzo, cioè prima era una situazione difficile da gestire, però tutti i mezzogiorni si andava al ristorante a mangiare, adesso c'è una cucina nella quale mangio e voglio dire e mangia lo stesso anche se non va fuori a spendere. Come abito, dove sì, lavoro, diciamo, quindi casa e bottega, chiaro, sostanzialmente chiaro. Non faccio chilometri, quindi non mi arrabbio nel traffico, per anche questo. Comunque, vedi, vabbè. L'ultima parola, io comunque sono convinto che diciamo la politica ha come dovere in questo momento, e io sono renziano, sì, per questa ragione, di aiutarci a uscire da questa fase di decrescita in ogni caso, perché c'è molta gente che non ha lavoro e che deve averlo, e nella decrescita il lavoro purtroppo non si costruisce. Va bene, questa è una posizione un po' borderline questa di Marco, perché ripeto, qui è uno che ha fatto di necessità virtù, adesso non vanno più a pranzo fuori, ha risparmiato sui costi del capannone eccetera, però è come se stesse sempre in attesa di una ripresa che debba arrivare, e questo però è il grande punto interrogativo. Sì, ma è molto diverso come dici tu, nel senso che questa è una reazione a una situazione, invece la decrescita felice è un'azione, è una scelta che uno a priori dice ma a io devo può vivere essere, in una... sì, può essere cose anche una possono reazione, andare insieme, possono anche insieme, anche se però... poi naturalmente cambia il punto di vista. Va bene, andiamo, siamo quasi in chiusura, dobbiamo ancora assegnare il premio, il corso speriamo. English 24, Business English 24, è un bellissimo corso. Secondo me ci siamo, perché Luciana dalla provincia di Verona. Sì, sono io. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo dato tanti indizi, prego. Io mi sono collegata 10 minuti fa con la radio. Sì. E ho sentito quella frase e ho pensato immediatamente. Quale frase? Quale frase? La frase non è una minaccia per questa persona dire mani in alto. Ok, Joe Bastianich, perché? Perché seguo mangiando il programma di cucina, per cui logicamente lo dice spessissimo. Ah, lui dice mani in alto in quel programma, sì. Io non lo vedo. Ah, vabbè, comunque non era lui, non era lui, peccato. Non era Joe Bastianich, cioè, in realtà c'era tutta una serie di altri indizi che avevamo detto prima e che non collimavano. Non li ho seguiti. Va bene, grazie. Grazie mille, buona domenica. Grazie. Alessandra da Como. Alessandra? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Sì, benissimo. Il mio personaggio è Francesco Facchinetti. Perché? Perché ha proposto il recupero di una città fantasma per darla in uso tipo Silicon Valley a giovani talenti. Complimenti signora, brava Alessandra, ha vinto, e la notizia è bella, l'ha già detta lei, detta è molto lei, bella, sì. Ha avuto uno sviluppo, insomma, nel senso che lui ha chiesto a diverse aziende italiane di finanziare questo progetto, di fare a Consonno, città fantasma alle porte di Milano, una città dei ragazzi, una Silicon Valley, però nessuno ha risposto per ora, lui si è un po' stizzito, ha detto che anche queste aziende sono dei fantasmi, vabbè, vediamo se l'iniziativa di Facchinetti andrà a buon fine. Ah, dobbiamo proprio chiudere adesso a 30. Va bene, allora ci sentiamo sabato prossimo senza saluti, così. Ciao Carlo, a sabato prossimo. Ciao Alessio. Ciao a tutti. Buona domenica.